Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mi dicono tutti che sono bellissima, che ho una pelle meravigliosa, ma ho un problema. Puzzo. Lo sento, il mio odore è diverso da quello delle altre. Ognuno ha il suo odore personale, c'è chi sa di bambino, chi di Borotalco, chi di contadino. Io so di sottaceti. Ed estate ancora peggio. Fa caldo, si suda, lo so che la cosa non ci piace, ci imbarazza, ma se non sudassimo staremmo caldi, molto molto caldi, forse con la lingua fuori vi dico di più, probabilmente moriremo avvelenati. Vi basta per rivedere un po' le vostre posizioni nei confronti del sudore e per guardare sotto un'altra luce quelle che molti avvertono come un disagio a fior di pelle? Proviamoci. In studio con noi il professor Antonino Di Pietro, direttore dei servizi di dermatologia dell'ospedale di Inzago in provincia di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Noi stiamo sudando perché certo. Lo facciamo di continuo, sudiamo di notte, di giorno, mentre riposiamo, sudiamo di più naturalmente quando la temperatura sale, quando facciamo uno sforzo fisico, quando siamo sottoposti ad una tensione emotiva. E meno male, professore, perché il sudore è un nostro amico, forse un po' invadente, ma un amico che lavora per il nostro bene, o meglio per il nostro benessere. Certo, sudiamo perché siamo sani e siamo sani perché sudiamo. Sudare è un po' come respirare, quindi è estremamente importante per la nostra sopravvivenza. Sudiamo perché in questo modo, per prima cosa, riusciamo a mantenere la temperatura del nostro corpo nel giusto grado. Più fa caldo, più sudando, questa acqua, sì, che è la gran parte del sudore, fuoriuscendo, bagna la nostra cute, evapora e la raffredda, un po' come l'acqua che viene messa sulle superfici di quei capannoni dove si gioca a tennis durante l'estate, sì, anche a volte i campi coperti, ecco, sì, si vede quest'acqua che scorre giù e quindi raffredda tutta, o come quando si raffreddano le pentole quando sono calde, no? Mettendole sotto l'acqua. Quindi è estremamente importante, ma anche perché attraverso il sudore noi buttiamo fuori, tra virgolette, eliminiamo molte delle sostanze che accumulandosi all'interno del nostro corpo potrebbero essere dannose. Per questo io provocatoriamente ho detto: se non sudassimo moriremmo avvelenati. Ma certo, sicuramente un fatto, ecco, conosciuto è un qualcosa è successo qualche anno fa, dove verniciarono, misero un colorante, una vernice sul corpo di una persona per fare delle fotografie, colorandola completamente, non riusciva più a sudare e ebbe un collasso e stava andando all'altro mondo. Quindi se noi ci rivestissimo con qualcosa per non sudare, potremmo sicuramente morire. 800 24 00 24, se volete intervenire per parlare di disagi a fior di pelle. L'altra faccia della medaglia della sudorazione è l'imbarazzo, perché la fronte imperlata di sudore, gli aloni sui vestiti, la mano un po' sudaticcia ci mettono in una condizione di disagio, e più si ha paura di sudare e di farsi vedere sudato, più si suda, perché come sappiamo la sudorazione ha origini fisiologiche, che lei ci ha spiegato, ma anche psicologiche. Sì, certamente. La sudorazione è un modo per comunicare anche all'esterno, da parte nostra, ma curioso è anche sapere che esistono tre tipi di sudore. Esiste la euidrosi, che è la sudorazione normale, quella che, sì, tutti noi vediamo in grande abbondanza e che serve soprattutto per regolare la temperatura, ma esiste anche la bromoidrosi, mm-hmm, e la cromoidrosi. La bromoidrosi è il sudore puzzolente, sì, ecco, molti avranno verificato nel corso della vita, oppure sono stati accanto a persone, mm-hmm, con cui magari lavorano, che hanno questo sudore molto accentuato. Ecco, questo sudore non sempre è legato a una cattiva igiene, ma al fatto che si può sudare in maniera puzzolente. Sì. Ecco, questa è la bromoidrosi, che è tutto sommato anche un modo per comunicare verso l'esterno, curiosamente, ma è un modo di comunicazione, come anche la cromoidrosi, cioè il sudore colorato. Alcuni sudano e se portano delle camicette bianche o chiare si forma quell'alone scuro marroncino, che è dato dal fatto che c'è l'emissione di un sudore con dei pigmenti che colora, macchia gli abiti. Ecco, anche questo può essere un modo per comunicare. E quindi, anche se non vogliamo, la traspirazione costituisce proprio un importante elemento di comunicazione. C'è. Credevo solo che fosse il momento più adatto per darmi il mio regalo. Amy, io non ti ho preso niente. Hai detto che non volevi che ti prendessi niente. Non è così? Oh no, piangi. No. Mi è sfuggito qualcosa forse, ma allora tu il regalo lo volevi. Garrett, se io ti ho detto di non prendermi niente era perché tu mi facessi un regalo fantastico. Io sono il tipo di ragazza che non le chiede le cose. Come? Oh, Amy, avanti, ora non provare nemmeno a telefonarmi. No, Amy, aspetta. Vuoi che ti telefoni o che non ti telefoni? Basta intendersi a proposito di comunicazione. C'è cascato anche lei, professor sì. Di Pietro? Sì, non farmi il regalo, no, poi lo volevo. Adesso dove arriviamo? A proposito di comunicazione tra i sessi, che a volte è difficile, il sudore funzionerebbe anche da richiamo sessuale. Secondo alcune ricerche, una sostanza contenuta nel sudore maschile provocherebbe nelle donne l'innalzamento del livello di un ormone che è correlato con lo stress, ma anche, attenzione, con l'attivazione dell'attività cerebrale e dell'eccitazione sessuale. Voglio il tuo profumo. E in linea con noi abbiamo il dottor Marco Rossi, sessuologo e psichiatra. Dottor Rossi, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Il partner si sceglie anche a naso. Eh sì, perché ci sono delle sostanze, le famose ferormoni, e tu pensa addirittura che c'è stata una ricerca in Scozia che ha proprio dato un nome anche a uno particolare di questi ormoni, che è l'androstadienone, nome complicatissimo, però per dire che ci sono questi ormoni contenuti nel sudore che hanno proprio un valore comunicativo e che possono essere percepiti dal partner per individuare, no, le persone più adatte in fondo per la riproduzione. E in modo particolare sono le donne che hanno questa capacità, questo naso così perfezionato da poter sentire gli odori dell'uomo più adatto, no, a procreare. E infatti è interessante che pensare che solamente circa il 19% dei profumi che usano gli uomini riescono a mascherare questi odori, che quindi vengono percepiti dalle donne in quest'alta percentuale, mentre la metà degli uomini non riescono a scoprire l'odore delle donne, il vero odore sessuale delle donne, quando queste usano dei profumi. Dottor Rossi, quindi il profumo della pelle della persona amata racconta molte cose, avvicina e lega. Eh sì, perché addirittura il legame degli odori nasce proprio come modo per riconoscere, anche per la mamma, riconoscere i propri figli. Certo. E poi si evolve nel corso del tempo. È proprio un richiamo genetico, e perché poi gli ormoni, i ferormoni sono prodotti proprio codificati dai nostri geni, richiamo genetico e istintivo, perché proprio marca la persona, marca le caratteristiche della persona, e addirittura cambiano questi odori a seconda del momento in cui c'è una disponibilità sessuale, tipico per le donne il momento dell'ovulazione. Professor Di Pietro, i suoi pazienti sono a conoscenza di questo potere del sudore, ed sono più sensibili gli uomini o le donne? Beh, diciamo che dovrebbero sapere un po' di più questo che abbiamo appena detto, perché i pazienti in genere vengono da me disperati in studio perché non vogliono, tra virgolette, puzzare, cioè non vogliono che si senta il loro sudore, sono sempre estremamente imbarazzate. In effetti a volte rasenta quasi la patologia, perché come dicevamo prima la bromoidrosi è piuttosto fastidiosa, sì. Cioè hanno sempre questo cattivo odore continuamente, quindi la disperazione in questo caso è, direi, del tutto fondata. E allora si cercano dei rimedi. Ecco, non dobbiamo dimenticare che anche l'alimentazione può avere una certa importanza. Noi col sudore espelliamo attraverso la cute anche sostanze che mangiamo, e quindi alcuni elementi o principi attivi o componenti di ortaggi, soprattutto non dimentichiamo le cipolle, certo. O gli asparagi, quando li mangiamo si sentono, no, sulla nostra pelle. Ecco, quindi l'alimentazione è importante per alcuni soggetti che sudano molto. e poi si ricorre a cose un po' più drastiche come antitraspiranti, deodoranti e così via. 800 24 00 24. Dottor Rossi, spezziamo però allora una lancia a favore del profumo, dell'odore della pelle. Sì, l'importante è non coprirlo, cioè questo, gli odori hanno veramente un potere seduttivo. Molto spesso le persone pensano di poter sedurre le altre persone con le parole. Mm. Ecco, le parole non servono quasi a nulla nel gioco della seduzione, cioè, servono circa il 7% dell'insieme. Quindi molto più importante è l'atteggiamento del corpo, quindi la parte non verbale del nostro comportamento, e abbiamo visto quindi proprio questi odori. Quindi bisogna lavarsi forse un po' di meno, magari usare dei detergenti meno aggressivi che non vadano troppo a mascherare il nostro odore caratteristico proprio della nostra pelle. E che il naso faccia le sue scelte. Assolutamente sì, perché il naso di solito non sbaglia mai, perché proprio viene coinvolta la parte più arcaica, più istintiva del nostro cervello dagli odori, che di solito non sbaglia. Grazie dottor Rossi per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, ciao a tutti. Sergio ci chiama da Milano e poi anche Giuseppina. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Voglio fare la domanda. Sì. Allora, io di notte d'inverno sudo tantissimo, io ho cambiato la temperatura in casa, cioè di vestirmi un po' di più o di meno, con una maglietta o senza, però non c'è verso, io sudo tantissimo, mi sveglio tutto bagnato, non capisco quale può essere il problema. Grazie Sergio. La ragione è che è un fatto costituzionale, cioè chi suda di più, chi suda di meno, tutti sudiamo, ma la quantità di sudore emessa e quindi percepita cambia da persona a persona, quindi ci sono gli eccessi in un senso e gli eccessi in un altro. Sudare tanto è un fatto quindi costituzionale. Un po' costituzionale. Queste ghiandoline certo, si danno parecchio da fare. Legato anche a periodi particolari della vita, quando siamo sotto stress si suda di più, quando gli studenti vanno a fare un esame sudano. La sudarella da esame. A volte certo. Se si incontra una persona con cui si ha un appuntamento e a cui si tiene tanto, si suda, quindi diventa imbarazzante. È un fatto legato al sistema nervoso, ma anche a livello costituzionale, quindi chi suda tanto è così. Giuseppina, buongiorno, ci chiama da Milano, benvenuta. Grazie, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo porre una domanda per quanto riguarda mia figlia, a cui è stata fatta una diagnosi di peridrosi. È il secondo anno che noi facciamo iniezioni di botulino sotto le ascelle. Il problema rimangono molto le mani e i piedi. Ci hanno proposto una specie di clampaggio del nervo simpatico. Volevo sapere in alternativa se c'erano altre soluzioni meno cruente. Grazie. Grazie Giuseppina. E lo spunto di Giuseppina è quello di chiederle, professore Di Pietro, chi suda si trova in imbarazzo e pensa sempre di sudare in modo eccessivo. Sì. Quando diventa patologico? Dunque, diventa patologico quando diventa un grosso problema psicologico per il paziente. La ascoltatrice che ha appena chiamato ha parlato di una terapia con la tossina botulinica, che in questo caso usato come farmaco, quindi per risolvere una patologia, quindi un problema per il paziente, può essere anche una soluzione da seguire. Non tutti reagiscono bene a queste iniezioni di botulino, che devono essere fatte sempre con tutte le attenzioni del caso. In alcune situazioni può esserci anche un beneficio transitorio, perché dura da 1 a 2 mesi, in alcuni casi 3 mesi, ma dipende molto dal dosaggio e quindi da quanta tossina si inietta, e quindi anche in questo caso attenzione a tutti i pericoli che possono esserci correlati all'uso di questa sostanza. Però come qualsiasi altro farmaco può essere una possibile soluzione. Quando non c'è una buona risposta alla tossina botulinica, purtroppo al momento si pensa a soluzioni definitive, come quello di agire direttamente sul nervo che arriva alle ghiandole sudoripare. È come e quindi un interruttore. Come un interruttore, esatto, cioè non arriva più l'impulso alla ghiandola e quindi la ghiandola si interrompe. Quindi queste sono le due opzioni. Queste sono quelle massime. Massime. In alternativa? Sì, in alternativa le altre sono le creme che bloccano un po' la sudorazione, la traspirazione, ma con tutte le attenzioni del caso. Di cui parleremo anche nel corso della nostra trasmissione. Attilio e Maurizio. Attilio ci chiama da Bergamo all'800 24 00 24, mentre Maurizio ci raggiunge da Padova. Attilio, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io voglio portare una mia testimonianza a favore di quel discorso, quel tema che sta sostenendo il suo vostro medico lì in Libia. Sì. Io ho 52 anni, i tempi passano, ma a 28 anni avevo una vecchia morosa di cui la mamma mi diceva: tieniti pulito, lavati, profumati, non fa brutta figura. E invece la morosa, che aveva 2 anni più di me, bramava il fatto che invece mantenessi il vero profumo, che amo, aroma naturale della sua pelle. La sua amorosa amava proprio la sua pelle, l'aveva scelta a naso, e lei se l'è lasciata scappare, Attilio? Di anni, forse i tempi cambiano, si viaggia. Si viaggia, cosa vuol dire si viaggia? Quando uno viaggia cambia l'amorosa. Ha cambiato bagno schiuma. No, cioè. è cambiato lavoro. Però il tema che sosteneva il dottore, il fatto che un uomo involontariamente trasmetta dei profumi, delle aroma, la ragazza in questo caso lei bramava a sentire il profumo dell'uomo. E lei inebriava il suo discorso. Beh, adesso inebriare Attilio, le sarà era innamorata di lei, proprio inebriata? No, però aveva proprio accennato, perché la doccia, mi piaceva mettere i famosi deodoranti, i profumini. Quindi anche da Attilio, che ci chiama da Bergamo, il messaggio è: uomo profumato ma non troppo. Sì. Maurizio è d'accordo, buongiorno, ci chiama da Padova. Buongiorno. Maurizio, lei è un uomo profumato, molto profumato o nature, come ma si dice? Ma diciamo che io profumo ne uso pochissimo, anche perché grazie alla natura io sudo tantissimo ma non ho nessun odore. E quindi è l'EU, giusto? Sì, l'EU idrosi. Quindi... L'EU idrosi, EU che sì, è già, che già normale, normale. Ecco, il mio problema base però sono le ascelle, soprattutto la destra, perché lei faccia conto che io posso usare il vestito una volta, dopodiché mi tocca eliminarlo perché mi crea delle fasce bianche che non si tolgono neanche col lavaggio, sembra sale. Questo è il problema grosso. Professor Di Pietro. È un problema legato al fatto che lì costituzionalmente, quindi perché è nato così, ha una maggiore concentrazione di ghiandole sudoripare, cioè nell'ascella destra per centimetro quadrato le ghiandole sono molto più numerose rispetto a quella sinistra e quindi tende a sudare di più perché lì emette più sudore. Il fatto che si crei poi l'alone sugli abiti, questo è legato è un po' un regalo un po' dell'estate. Al fatto che anche i coloranti ci sono nelle stoffe bagnandosi e quindi poi dopo così sono delle reazioni anche chimiche che poi portano a questo. Ed eccoci qua, siamo tornati, professor Di Pietro. Sudare fisiologico e salutare aiuta addirittura, come abbiamo sentito, la comunicazione tra i sessi, ma il sudore può anche facilitare lo sviluppo di funghi o di altri disturbi cutanei. Ad esempio, chi usa le calzature in gomma, scarpe da ginnastica, può trovarsi a fare i conti con il cosiddetto piede d'atleta, che non è il colpo di classe che distingue un grande campione da tutti gli altri, ahimè, ma una fastidiosa infezione che colpisce i piedi degli sportivi, dico degli sportivi, ma anche non dei solo, sedentari. Certo. Ed eccola lì, no? Abbiamo queste pustoline rosse, poi si desquamano, è una seccatura a volte anche dolorosa. Ah, direi estremamente fastidiosa. Inizia soprattutto negli spazi tra le dita. Sì. La causa è il caldo umido che viene a crearsi quando il piede è in calzature che non lasciano traspirare molto. Allora l'aumento della temperatura, il calore, quindi la sudorazione, crea questo caldo umido che favorisce la crescita di determinati microrganismi, soprattutto i funghi. Sì. La pelle si arrossa, si macera, si spacca, si formano queste ragadi che sono fastidiose perché bruciano, fanno male. bisogna curarla al più presto, mettendo creme antimicotiche e eliminando le scarpe che tengono il piede troppo chiuso, magari con la suola in modo che possa traspirare meglio. E in genere nell'arco di un paio di settimane tutto passa, ma non solo i piedi, ma anche dove ci sono delle pieghe in cui si crea ancora caldo umido. Ad esempio, nelle donne che hanno un seno abbondante è facile vedere la comparsa di queste micosi, arrossamento, irritazione, bruciore sotto le mammelle. Quindi attenzione, perché il caldo umido, se lasciato lì per tanto tempo, può essere pericoloso per l'insorgenza di infezioni, funghi e micosi. 800 24 00 24 se volete parlare con noi. Abbiamo dedicato la prima parte della trasmissione ai vantaggi, ai lati positivi del sudore, ma a volte lascia il segno, non solo un segno colorato come lamentano molti ascoltatori, il famoso alone sotto le ascelle, ma proprio un segno, perché provocando la macerazione della pelle, ecco che ci troviamo a fare i conti con queste pustoline che si desquamano e diventano anche dolorose. Certo, un altro consiglio pratico è acqua e bicarbonato. Fare degli sciacqui con acqua e bicarbonato può essere utile, perché in ambiente basico questi funghi in genere vengono fermati o si blocca la loro crescita, la loro diffusione. Quindi questo può essere un altro consiglio pratico, oltre, nei casi più importanti, delle creme antimicotiche. Antimicotiche. Se non ti dispiace, mi vado a fare una doccia mentre tu finisci qui. Sì che mi dispiace. Ho fame. Scusa, ho dimenticato il mio anello nel portasapone. Quale portasapone? Quello. Lo devo aver lasciato quando ho fatto la doccia. Quale doccia? Poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora di abbracciarmi ancora. Rinfreschiamoci allora, Laura Vanossi che cerca questi stacchetti con grande cura, e adesso allora noi rinfreschiamoci, usiamo il detergente giusto. Ci aiuta il professor Umberto Borellini, cosmetologo e docente all'Università di Pavia e Tor Vergata. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professore, ci aiuti, noi ci mettiamo l'acqua, lei porti il sapone o il bagnoschiuma, veda lei. Direi che d'estate io né uno né l'altro. Bene. Nel senso che il sapone, inteso come saponetta tradizionale, oltre a essere tendenzialmente alcalina, basica, e poi lì avete il grande professor Antonino Di Pietro che lo può confermare. Ciao Umberto, buona mattina. Ciao Antonino. Chiaramente altera un po' il normale pH cutaneo, che è sempre un po' acidulo, quindi sempre un po' acido. In più la saponetta intesa così tradizionalmente è anche poco igienica, perché passa da una mano all'altra. Altresì il bagnoschiuma... Poi cade sempre nella doccia. Come? Cade sempre nella doccia. Esatto, quindi cadute continue, ma è entrato nella mitologia. Il bagnoschiuma invece io lo vedo più proprio come un cosmetico specifico da inserire nella vasca per godere della schiuma, ma per far schiuma contiene tensioattivi, ovvero detergenti aggressivi, che tendono a sgrassare troppo la pelle, per cui sulla pelle non li consiglio. Invece ci sono questi doccia schiuma particolari, delicati. Io consiglio, dopo, guardando gli ingredienti, dopo acqua, cercare queste sostanze che finiscono per betaine. Sono dei tensioattivi, ovvero dei detergenti più delicati, meno schiumogeni, per cui fanno meno scena, se vogliamo, però sostanzialmente asportano in maniera più delicata lo sporco, insomma. Tra l'altro io penso che, stando in spiaggia, uscendo dall'acqua di mare, io consiglio una doccia di acqua e basta, cioè acqua non ha neanche logica inquinare assolutamente le spiagge con... Assolutamente, anch'io la penso assolutamente come lei. Alberto ci chiama da Brescia, sentiamo che cosa ci racconta all'800 24 00 24. Alberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie del tempo che mi dispone a disposizione. Volevo fare questa domanda al dottore. Allora, sono una persona che ha una sudorazione, diciamo così, normale. In questo periodo sudo di più, durante i momenti di tensione effettivamente c'è una sudorazione in più, però niente di più. Allora, un collega mi ha consigliato l'allume o cristallo di rocca, come si voglia definire. Sì. da usare dopo la doccia, diciamo sotto le ascelle, uno dei punti di sudorazione maggiore. Io l'ho usato e effettivamente ho riscontrato che la sudorazione è ridotta, sì, è ridotta abbastanza notevolmente, e soprattutto anche quel poco di sudorazione che ho, anche l'odore tipico del sudore è un po' sparito, diciamo così. Al lume di Rocca ci suggerisce, sì, Alberto da Brescia. Ci piace, professor Di Pietro. Poi sentiamo il professor Barellini. Sì, allora io sono d'accordo sulla lume di Rocca. È un minerale vulcanico, quindi naturale, che è stato utilizzato per generazioni e generazioni, addirittura fino a pochi decenni fa e per secoli è stato utilizzato sul viso come dopobarba dai nostri nonni, dai nostri antenati. È molto ben tollerato, ha questa azione sulle ghiandole sudoripare, ultimamente abbiamo riscontrato un'azione anche sulle ghiandole sebacee, quindi anche un seboregolatore, e è un rimedio naturale e direi che potrebbe essere anche un primo rimedio o un'ottima alternativa. Si passa su pelle un po' umida e i risultati sono buoni. Molti dei miei pazienti lo usano, ho dato questo consiglio e insomma in molti casi è stato un buon miglioramento, sempre con attenzione. Professor Barellini, lei vuole aggiungerci magari qualcosa? Vuole suggerirci altri rimedi? Andiamo nel sudore, quindi abbiamo superato le docce. Sì, adesso noi la doccia l'abbiamo fatta, abbiamo lasciato a parte. No, il sapone, no, il bagnoschiuma. Abbiamo scelto questi prodotti e per sceglierli bene lei ci ha detto che dopo l'acqua bisogna cercare betaine, oppure andare direttamente sulla scelta dei prodotti anche per bambini. Perfetto. O anche gli intimi, si può fare benissimo una doccia con un detergente intimo magari mentolato. Perfetto. Rinfresca tutto il corpo. Ecco, e quindi con uno facciamo tutto, ma noi siamo asciugati. Annoso la doccia. Problema. Concordo col professor Di Pietro sulla naturalità della lume di Rocca, mentre sono un po' più critico nei confronti di un cugino, nel senso che i sali d'alluminio nei deodoranti, nell'uso continuativo, ecco, potrebbero un po' disturbare l'equilibrio epidermico. Quindi cosa leggiamo? Sì. C'è scritto proprio sali di alluminio. Aluminium cloridrate, ecco, io non mi fanno impazzire questi, perché appunto, come dicevamo prima, sudare è vitale, sudare termoregola. Quindi si trova anche la fidanzata. Esatto, i feromoni e quant'altro, quindi sui sali d'alluminio non sono molto d'accordo, così come sono contrario agli antibiotici, nel senso che ci sono dei disinfettanti in molti deodoranti come la clorexidina, il triclosan, che ucciderebbero un po' tutta la flora microbica, ma non è una flora microbica patogena quella che alberga sotto le ascelle, fa parte un po' del nostro corredo, quindi andando a uccidere questi microbi, chiaramente questi metabolizzano meno il sudore apocrino e sono funzionali, però si va a creare anche una sorta di resistenza, insomma, per cui io sono più per diciamo deodoranti naturali che lascino sudare, che lascino anche un po' questo segnale feromonico, e chiaramente ci vogliono gli ingredienti giusti. Quali sono? Sì. Uno, antiossidanti, sì, quindi vitamina E, vitamina C, BHT, BH, queste sono sostanze che evitano l'irrancidimento. Quando il sudore irrancidisce, vi dico due acidi che si formano, così capite. Uno è l'acido capronico e l'altro è l'acido caprinico. Capronico e caprinico la dicono lunga. Ecco, quindi se si evita l'irrancidimento del sudore, noi abbiamo un sudore acquoso che magari inzuppa le camicette, ma non va in quella, sì, in quella diciamo tossicità che poi fa svenire i vicini. Quindi antiossidanti in primis, poi ci sono, diciamo, ecco, io adoro gli oli essenziali, ci sono alcuni oli essenziali che oltre a profumare mantengono, diciamo, un po' pura la zona e lasciano il profumino del fiore, e poi ci sono i complessanti che a me piacciono molto, antienzimatici, qua i nomi sono un po' difficili, non so se avete carta e penna, io li dico. Me ne dica uno. Trietil citrate. Trietil citrate, ecco, questo blocca gli enzimi che degradano il sudore. Quindi ecco la formulazione perfetta per il nostro deodorante. Professor Borellini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie professore. E tra poco sentiremo anche il professor Ciro Vestita, che è già in linea con noi. Professor Vestita, buongiorno. Medico dietologo all'Università di Pisa. Che cosa ci racconta per tenere la nostra pelle fresca, profumata, per non bloccare il nostro sudore, che abbiamo visto certo. Che è fisiologico, è importante. La natura ci aiuta. Abbiamo inventato le saune, cioè bisogna sudare, bisogna saper sudare. Sudare tanto, tant'è che d'inverno lo facciamo con la sauna, questo è importante. E quindi adesso abbiamo la sauna a disposizione tutto il giorno, gratis. Esatto. Per quanto riguarda la natura, beh, c'è da fare tantissime cose. Innanzitutto sono due piante medicali molto utili per non far irrancire il sudore, quindi mi allaccio a quello che diceva prima il collega. Una è l'aloe. L'aloe sì. È qualcosa di pazzesco, bisognerebbe provarla perché è difficile capire il potere di questa pianta. Beh, senza andare su prodotti a base di aloe, perché poi hanno sempre i soliti compagni di merende oltre sì. L'aloe, si può tranquillamente prendere una piantina, tenerla in casa, una decina di bracci, una tantum, prendere un pezzetto di aloe, decorticarla, togliere l'epidermide e fare praticamente, dopo aver fatto la doccia, c'era dei passaggi sotto le ascelle. Beh, vi assicuro che accade qualcosa di incredibile, cioè non c'è quell'odore forte dovuto appunto al irrancidimento della sudorazione. Qualcosa di più complicato invece si può fare con dei decotti di lavanda. La lavanda o spigo è qualcosa di pazzesco, lascia un profumo veramente delicato sulla pelle, tant'è che le nostre nonne mettevano addirittura la lavanda sotto i cuscini. Sì. E tutto ciò è fisiologico, perché io do molta ragione al collega che parlava prima della flora microbica saprofita. Se noi usiamo dei disinfettanti addosso alla cute, noi cambiamo il tipo di flora e combiniamo pasticci. Ricordo che un deodorante usato male può fare anche ingrossare le ghiandole a livello dell'ascella, e se la signora ha 40 anni se la prende subito col certo. Seno e quindi subentra una fase di terrore. Quindi metodiche naturali, bere tantissima acqua, non bloccare la sudorazione. E soprattutto, ecco, non prendere integratori se stiamo sudando in maniera tranquilla. Io credo che una piccola sudorazione, tipo quella estiva o quella di una piccola attività fisica, faccia veramente perdere pochi sali minerali. Quindi basta una fetta d'anguria o un succo di limone per reintegrare tutto. Gli integratori devono avvenire, devono essere usati quando solo la sudorazione avviene in uno sportivo che faccia veramente tanta attività fisica. E questo è quanto. Per il resto sudiamo tranquilli. Ricordo che gli egizi si incontravano chiedendo uno all'altro come stai sudando. E questo chiaramente sul benessere di questa cosa qui. Grazie professor Vestita, sempre un piacere averla con noi. Buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Noi vorremmo occuparci, professor Di Pietro, anche dei nostri bambini. A Siracusa si sta svolgendo in questi giorni un convegno che vede riuniti i massimi esperti di pediatria. In linea con noi abbiamo il dottor Gilisti. Buongiorno. Dottor Gilisti, buongiorno da Siracusa. Buongiorno da Siracusa. Allora, dottor Gilisti, come state sudando lì? A proposito del... Ma è molto caldo, ma oggi un po' meno di ieri, sì, il caldo è straordinario, ma è la punta massima dell'anno, ma è bellissimo, ogni tanto un po' di caldo ci vuole, anche questo fa piacere. Assolutamente, poi Siracusa val bene una sudata, come si dice, una città magnifica. Ma ieri sera abbiamo un grande evento, oltre che il convegno di pediatria, di dermatologia, abbiamo un grande evento, una festa per i giovani che si chiamano Feste Archimedee, sono 3 giorni, sì, abbiamo 3 chilometri quadrati di palcoscenico. Quindi proprio una grande festa e un grande convegno per i bambini. Dottor Gilisti, volevo chiedere a lei come si aiuta la pelle dei nostri bambini, soprattutto di quelli piccoli, a difendersi dal caldo. Purtroppo però il nostro audio è pessimo da Siracusa, ma intanto ricordiamo questo convegno, un convegno molto particolare perché è aperto molto ai bambini, giochi, intrattenimento. Dottor Gilisti, cercheremo di riprendere il collegamento, nel caso ci risentiremo. Professor Di Pietro, tocca a lei. La sudamina, sudamina, o come si dice, queste pustoline che colpiscono soprattutto la pelle dei bambini, quelli che portano i pannolini nel giro, no? Non solo i pannolini, ma in questa stagione che fa molto caldo, quando questi bambini vengono tenuti coperti molto e quindi si impedisce la loro traspirazione, quindi sudano tanto, traspirano poco, male. E si formano queste piccole vescicole, grandi come una capocchia di spillo, un po' su tutto il corpo, tutto. Cioè dove sudano ma poi non riescono a traspirare. E cosa facciamo? Li teniamo sicuramente poco coperti. Scoperti. A me capita di vedere bambini coperti con una copertina di lana nella carrozzina in piena estate, quindi è incredibile. O anche i bambini sudano tanto e non hanno freddo, hanno sempre molto più caldo di noi, quindi vanno lasciati con degli abiti molto leggeri di cotone, vanno lasciati respirare. Ma serve quando... l'amido, ad esempio, i bagnettini di amido caso possono essere utili. Quando si forma questa patologia sudamina, dei bagnettini di amido sono più che efficaci, e poi in pochi giorni con abiti leggeri passa tutto. Abiti leggeri in fibre naturali. Cotone, dovremmo metterli noi anche sempre, ma soprattutto per i bambini, soprattutto in questo periodo dell'anno. E poi ricordarsi di non coprirli, i bambini non hanno freddo, hanno sempre molto caldo, quindi evitare sicuramente gli sbalzi di temperatura, l'aria condizionata, attenzione, ma i bambini molto coperti con facilità vanno incontro a questa forma che si chiama sudamina. Sudamina. Ecco, l'accento è va lì. E, allora ricordate, poco coperti, bagni con acqua e amido e poi delle cremine, delle creme, in genere sono delle paste all'ossido di zinco che servono per lenire un pochino il prurito, il fastidio che questi bambini possono avere. Ecco, questo è più che sufficiente. Allora, io vi ringrazio per aver partecipato e averci seguito. La puntata di oggi termina qui. Ringraziamo molto il professor Di Pietro che ci ha dedicato il suo tempo prezioso. Ma è venuto addirittura qui in studio davanti piacere. A noi. Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica. Laura Vanossi è tornata in redazione. Vi ricordo perché che c'è il nostro Daily Lab, la nostra posta sempre a vostra disposizione, essere benessere @radio24.it, profilo Facebook e Twitter. A lunedì.